sono sovrano d'un regno che i suoi confini non ha. Questo mio splendido regno si chiama felicità. Sudditi sono le stelle, le nubi sono i castelli, e nelle notti più belle, detto lecci d'amore. Io sono il re dei sogni e insieme a te dividerò il mio regno sol per te. Il tempo fermerò, così giammai sparire ti vedrò. Accanto a te io vivo di dolcezze, sol così, guardandoti così, baciandoti fai nascere sogni d'oro nel cuore. Mio dolce re dei sogni, perché con te, vicino a te, ogni dolor si spegne, solo allora sorridere saprò, ed io lo so, d'amor sorridere. Con te verrai con me, mio dolce re dei sogni, e insieme a te, vicino a te, dividerò il tuo regno, sol così, tenendoci per mano, stringendo